Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Avete risposto alla domanda qual è la tecnologia che vi ha cambiato la vita? Ecco, potete farlo scrivendoci a progress@radio24.it. Paolo lo ha fatto, sentiamo. Sì, la più grande invenzione, secondo me, da premio Nobel è la lavatrice. Ma quale Nobel dovrebbe ricevere? Ecco, qui sta il punto. Per l'economia o per la medicina, visti i mal di schiena risparmiati a miliardi di persone? Qui in studio con noi c'è Lorenzo Grimalli, storico delle tecnologie domestiche. Buonasera Grimalli. Buonasera. Ecco, il Nobel si dà a qualcuno, quindi a chi potremmo attribuirlo? Non è facile attribuire il premio. Possiamo andare indietro nel tempo, a metà del Settecento, e qui abbiamo un teologo, Jacob Christian Schaffer, era tedesco. Lui ha inventato il primo marchingegno per lavare i panni, una sfregatrice. Imitava il gesto della lavandaia. Pare però che distruggesse i tessuti. Ma quando arriva qualcosa che assomigli alle macchine di oggi? Bisogna attendere la fine dell'Ottocento e le prime applicazioni dell'elettricità. Negli Stati Uniti arrivano modelli nei quali appare un cestello che ruota, ma la qualità non era un granché. Di fatto la lavatrice quindi è un oggetto abbastanza recente. Sì, è dopo la Seconda Guerra Mondiale, con alcuni marchi tedeschi, che nasce la lavatrice moderna. E il futuro? Ma io quest'anno ho visto dei tessuti trattati con pellicole nanotecnologiche sui quali non si depositano più macchie. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.